ce vuoi fa'? Che ce vuoi fa'? Vabbè, il prossimo pezzo è per i fascisti di merda. Bastardi. Si intitola Picchia al coglione. Grazie, grazie. Posso fare resurgo, osse, paperoga.